Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. È dal 2007 che è stata avviata, diciamo, la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia. Le cose dovrebbero essere cambiate. Da allora facciamo il punto su quanto sono cambiate e anche su che cosa dovrà cambiare ulteriormente in seguito, con l'ingegner Paolo Vigevano, che è amministratore delegato di Acquirente Unico SPA, che è la società dell'autorità per l'energia elettrica e il gas che appunto si occupa di acquistare energia sul mercato. Buonasera Vigevano. Buonasera agli ascoltatori. Noi ci occupiamo di assicurare in condizioni di concorrenza il transito dei consumatori che prima erano serviti in condizioni di monopolio dagli operatori che c'erano allora e nella 2A Acea prevalentemente, al mercato libero, ponendo un punto a cardine di tutta questa riforma, cioè il fatto che sia il consumatore a scegliere consapevolmente di passare al mercato libero, con questa caratteristica che per chi non passa non c'è un prezzo regolato da un'autorità o dal governo e quindi il cliente finale domestico italiano ottiene le stesse condizioni che ottengono i grandi compratori che comprano sul mercato all'ingrosso. Come sta andando il passaggio degli italiani al mercato libero? Sta avvenendo in che misura? A che punto siamo oggi? Per l'elettrico sostanzialmente noi abbiamo dal 2007 sono transitati 6 milioni di utenti, di cui 3 milioni e 2 di domestici, 2,7 di non domestici, piccole e medie imprese. Il tasso di switching, cioè il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, è sostanzialmente allineato con quello degli altri paesi. Una polemica che si fa spesso, si dice che 6 milioni sono passati al mercato libero, ma ci sono rimasti 36 milioni o qualcosa del genere, 27 al mercato tutelato. Quindi si dice, l'acquirente unico ha le spalle un po' troppo grosse, riesce a spuntare dei prezzi migliori e questa è la ragione per cui tanti italiani non passano al mercato libero. Non è detto che noi compriamo meglio degli altri. Noi siamo nel mercato, delle volte compriamo meglio, delle volte compriamo peggio. In realtà noi, la legislazione italiana è una delle più avanzate a livello europeo, sia in termini di liberalizzazione, sia in termini di tutela del consumatore finale. Ma secondo lei il consumatore finale è informato su questa possibilità? Ha capito bene cosa ha da perdere o da guadagnare? Questo è il punto più delicato di tutti. Adesso noi stiamo assicurando, come acquirente unico, per conto dell'autorità per l'energia, attraverso un call center voluto dall'autorità, attraverso uno sportello reclami a tutela del corretto comportamento degli operatori nei confronti dei consumatori, in termini di risposta ai call center, quindi con un sistema forte. Anche il sistema informativo integrato che è stato approvato. Ecco, io su questo ci vorrei arrivare con calma, perché lei parlava dello sportello consumatori e proprio lo sportello consumatori di recente avete ricevuto un bel numero di reclami, mi pare 3.500 di persone che sostanzialmente si sono trovate in essere un contratto di fornitura energetica che non avevano scelto, non avevano firmato. 3.500 sono un numero abbastanza, insomma, preoccupante. Stiamo parlando di 3.500 su un milione e mezzo all'anno. Se dovessimo confrontarlo con gli altri settori liberalizzati, come la telefonia, veramente siamo nell'ambito di un fenomeno fisiologico. Sono cattivi malfunzionamenti fisiologici in trasformazione di questo genere. Come può accadere? Il problema è se abbiamo gli strumenti adeguati per combatterlo, e direi proprio di sì. Cioè noi dobbiamo, la domanda sua era quella giusta, cioè è adeguatamente informato l'utente finale delle possibilità, dei rischi? No, io direi ancora non abbastanza. Okay. Cioè l'esistenza di questo mercato tutelato, molti la scoprono quando cambiano fornitore, prima neanche lo sapevano, è un momento in cui solo quando gli arriva a casa il rappresentante o l'incaricato della vendita dei nuovi contratti che capiscono cosa, e spesso non lo capiscono, e da qui originano, a volte anche per comportamenti scorretti, originano la quantità di contratti non autorizzati, di comportamenti distorsivi determinati spesso dal fatto che poi un operatore affida alle reti di vendita che non fanno parte dell'azienda, ma sono degli operatori che operano per diverse attività, dalla telefonia al gas, al l'energia elettrica e ci sono anche quelli poco corretti. Insomma, lei dice, arriva a casa della persona uno che propone di fatto il passaggio ad un altro operatore, ma la cosa non viene presentata esattamente per quello che è. Il cliente o la persona firma, in realtà non aveva capito che stava cambiando operatore, condizioni però di fornitura e così via. Ci sono strumenti molto forti di tutela rispetto a questo. E oltre, adesso stiamo per mettere in campo appunto il sistema informativo integrato. Che cosa farà? Consente a tutti gli operatori di avere le stesse notizie del monopolista, l'ex monopolista, rispetto all'utenza, quindi poter anche andare a profilare, a costruire le proprie offerte in modo più adeguato alle esigenze del cliente finale, ma soprattutto a dare, assicurare tempi certi nel passaggio da un operatore all'altro attraverso il cosiddetto switching, cioè il cambio di operatore per una volta è stata stipulato un contratto. In questo momento un operatore non sa se la tal famiglia ha già un contratto con qualcun altro, in pratica. C'è questo rischio, oppure la tal famiglia non ha la certezza che il contratto gli venga allacciato e non sa per quale ragione. Grazie a questo o che gli venga rescisso quando magari passa da uno all'altro. Ci sono stati fenomeni anche distorsivi in cui addirittura, essendoci la possibilità per l'utente finale che è passato al mercato libero di tornare al mercato tutelato, alcuni clienti si sentono dire no, lei ha fatto una domanda di rescissione del contratto che non era corretta. Cioè, questi i trucchetti ci sono messi in campo. È chiaro che stiamo parlando di un aspetto marginale rispetto a una quantità e a flussi di clientela che sono assolutamente allineati con quelli degli altri paesi. Grazie Paolo Vigevano. Grazie a voi. È tutto, a domani.